Ok, mi sento sveglio, mi guardo intorno meglio. Ho fatto circa un miglio, continua quell'abbaglio. Ricordo che deraglio, mi sento addosso un taglio. Io non mi sbaglio, sbadiglio, ripenso che mi scaglio sul volante. Mentre vivo quell'istante, un viandante mi taglia in modo allucinante. La strada entra, vedo una volante di polizia che si ferma sulla mia corsia, non è follia. Io non ricordo più, la mente corre via. In fondo vedo Belzebù, il fondo si fa blu. E sono dentro al mare, non sento male. Riesco a respirare dentro all'acqua. La pressione spacca i miei timpani. Vedo corpi a pezzi, squartati e visi limpidi. Infidi, mi disprezzano, piccoli, giovani. Come istrici, ispidi, tristi sì, lividi. Ricoprono quegli esseri deformi. Cerco di confondermi in mezzo a loro. Prendo un vetro e mi taglio dietro. Ho fatto un foro con un traforo. Sembra assurdo, ma sento un coro. Mi ritrovo all'ospedale, ma non ho male. Non posso comunicare, vedere, toccare, ma non parlare. Al tatto tutto mi appare fatto un matto. Col sacco si tocca il pacco e si soffoca. Mentre affoga una foca cieca, un'ostrica e un'ostetrica isterica. Mi sento in terapia intensiva, è invasiva. L'arpia che si avvicina e mi allucina. Si siede in cucina e cucina mia cugina. Dice che danno stelle mistiche, fanno essere tristi, che possono turbare te. Visioni miste, allucinazione triste, in fondo tutto esiste, appare più reale a me. E mi stupisco, in fondo non capisco, perché comunque insisto a chiedermi se esisto. Per queste crisi io vedo tanti liti, non scolgo più sorrisi, ma solo nervi tesi. È tutto così strano, osservo poco di umano. Vedo un vecchio, gli tendo la mano. Ma è uno specchio che riflette me stesso. Con un secchio di gesso dentro un flusso di sangue rismesso. Io genuflesso sul cesso, ecco un flash. Vedo me con le mesh, scorrere come flash. Spot troppo trash e faccio splash. In un mare di Jack, giocando a chess. Al mitico SNES con il diavolo e lo stress. Che mi dice, ehi, hai sempre odiato i DJ delle disco e mi passi gay. Mi stupisco come OJ Simpson, io ti bandisco. Poi ti finisco, ora ti spezzo il disco e la radio e sarai nel nuovo stadio a bruciare. E io e mi ritrovo in un covo di corvi o dentro un robo che mi attanaglia i ricordi. Sono in un posto di scogli con la scogliosa e rifogli. Con scritti eccisi i miei figli, hai rovinato le mogli. Ma non capisco, ti sbagli. E vedo corpi mozzati danzare in aria incazzati. Sono frustrati, privati dei loro sogni spezzati. Estrapolati dalla stessa vita che gli ha rubati. Ai loro cari modi amari mi dicono campari. Dice che danno stelle mistiche, fanno essere tristi, che possono turbare te. Visioni miste, allucinazione triste, in fondo tutto esiste, appare più reale a me. E mi stupisco, in fondo non capisco, perché comunque insisto a chiedermi se esisto. Per queste crisi io vedo tanti liti, non scolgo più sorrisi, ma solo nervi tesi. Campari, che confusione, forse compari. Invocano con toni spettrali e dei fanali illuminano i loro volti. Assomigliano ai miei amici sconvolti. Dopo un secondo risolti sono allibito. Arriva un bimbo che mi punta un dito. Mi si avvicina con gli infradito. Ed un uncino mi colpisce al ventre. Mi spedisce fuori l'intestino mentre mi dice sempre stolto pezzo di cretino. All'improvviso mi sento di nuovo il viso. Apro gli occhi, sono vivo, sorrido. Penso a un incubo e sospiro. Comincio a vomitare, ho mal di testa e male un rene. Odo rumori di sirene e comincio a pensare. È tutto buio in cancrena. Gli occhi si aprono appena dietro la schiena. Vedo la mia croma malapena attraversata da un'utilitaria. Mi manca l'aria. Trovi i miei amici, ma solo sotto una bici. Occhi sbarrati in cornici, sguardi infelici in superfici, privi di artifici. Un bimbo e mamma con le narici sanguinanti, investiti e svestiti dal mio mezzo. Quel fottuto mezzo e mezzo lo disprezzo e mi spezzo. E cado a terra in una pozza di sangue. Come in guerra, ho ucciso persone. Uno normale almeno piange. Ma sono troppo pieno e continuo a vomitare. Arrivo all'ambulanza, ma è tardi per sperare. Dice che danno stelle mistiche, fanno essere tristi, che possono turbare te. Visioni miste, allucinazione triste, in fondo tutto esiste, appare più reale a me. L'alcol limpido agisce in modo infido, ti lascia in bilico tra fantasia e realtà. Bevilo con un po' di scrupolo, arriverà il crepuscolo e ti sovrasterà.